Il problema è che spesso quelli che vengono, tra virgolette, abbandonati perché uno degli amici dedica 4-5 anni ad un'immersione totale in una relazione romantica, si offendono e se ne risentono. Mm. Invece noi dovremmo abituarci a considerarla come una cosa normale. Cosa saranno mai 5 anni rispetto alla lunghezza di una vita? E quindi lasciare aperta la porta, perché prima o poi l'amico tornerà a trovarci e ha soltanto dovuto svolgere una cosa che richiedeva per lui tutta la sua attenzione. Alessandro, da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sento molti ascoltatori che hanno problematiche simili alla mia. Cerco di spiegarmi rapidissimamente. Sì. Allora, anch'io nei momenti di grande difficoltà, come quella che sto vivendo in questi giorni, fine di una storia d'amore importante a cui credevo e volevo ancora credere, mi rivolgevo sempre agli amici, sì, per un conforto, per una parola, per un po' di insulti, per farmi dire quanto scemo sono e tutte, sì, queste cose. Sono tutte cose che aiutano, vero? Tutte cose che aiutano. Mi chiedo se questo ricorso che io faccio regolarmente è una debolezza che dovrei evitare, oppure l'amico c'è lì per quello? Io direi, Alessandro, dice che mi spacca le gambe. Alessandro, non ci sono solo per quello, per raccoglierci quando siamo a pezzi, anche per quello. Ma adesso andiamo alla viabilità e sentiamo poi che cosa ne pensa il dottor Aquilar. Essere e benessere. Dottor Aquilar, vado a bussare alla porta del mio amico quando sono giù e gli chiedo consiglio, sostegno, accetto anche che mi mandi a quel paese, che mi faccia sentire fesso. Certo, ma la questione in ballo è un'altra, è che quando noi abbiamo un problema di relazione, per esempio in questo caso di relazione romantica, noi abbiamo la sensazione di essere indegni di amore. Quello che ci consentono gli amici invece è di sentirci degni di amore malgrado i nostri difetti, e questo è il motivo che c'è dietro questa azione continua che tutti facciamo di andare dai nostri amici quando abbiamo avuto una difficoltà. C'era poi una cosa che volevo rispondere all'ascoltatrice Giuseppina da Modena che ci aveva chiamato prima, che lei diceva due amici, che una fatta a 9 anni e una all'università, sono le due situazioni ideali, perché da bambini il nostro inconscio, come io scrivo sempre, è molto più intelligente di noi e ci fa scegliere bene le persone. E nell'università le amicizie nascono quando siamo insieme impegnati a fare qualcosa che va al di là dell'amicizia, lavoriamo insieme verso uno sforzo comune e scopriamo che ci vogliamo bene o ci assomigliamo. Grazie, professor Chiti, sì, sono costretto a firmare, la prego, deve credermi, è vero? Certo che ti credo, Tom. Se ne vada, professore. Ma non è stata colpa sua. Si sieda, signor Henderson. Un'altra intemperanza sua o di chiunque altro e lei sarà espulso dalla scuola. Se ne vada, professore. Capitano mio, capitano. Chissà se il professor Keating, protagonista dell'attimo fuggente, avrebbe dato la sua amicizia su Facebook ai suoi ragazzi, o almeno ai 7 ragazzi della Società dei Poeti Estinti. Voi che dite? Il rapporto online tra chi insegna e chi studia è argomento di discussione, soprattutto oggi ad accendere il dibattito è una circolare scolastica ad una scuola di un paese ligure che vieta ai professori di dare amicizia ai loro allievi su Facebook. Vogliamo commentare la ricerca con Alberto, la notizia con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, che in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletto, buongiorno a tutti. Che dici? Allora, io penso che effettivamente è un po' sconsigliato come professore entrare in contatto con i propri studenti attraverso Facebook, perché Facebook cancella ogni tipo di gerarchia, è una comunicazione totalmente trasversale e dove il professore perde ruolo, e secondo me invece, siccome di amici i nostri figli, i nostri studenti ne hanno tanti, ma di genitori e professori ne hanno molto poco e sono molto pochi, e sono ruoli che servono nel percorso educativo, io rimarrei al mio posto, ecco, se fossi un insegnante, quindi condivido il senso, poi non la metterei per obbligo per circolare, ogni insegnante può anche entrare in Facebook ben sapendo che può farlo mantenendo il proprio ruolo e quindi facendo certe cose. Il problema è quello che i ragazzi mettono sul loro profilo, perché spesso è un contenuto molto molto intimo che viene socializzato in modo molto selvaggio. Grazie ad Alberto Pellai per questa riflessione, magari ne riparleremo anche appunto sul nostro profilo Facebook, per l'appunto. Grazie Alberto. Buongiorno. Un abbraccio. Ciao.

Niente, lui mi aveva detto che aveva un'amica che frequentava, la cui si è rimasta fra di noi, solo che ora mi ha rivelato che questa amica è un'amica del gruppo, solo che è arrivata al punto che ormai lo sappiamo tutti. Cioè, un vero amico me lo doveva dire una cosa del genere sin dal primo giorno, o sbaglio? Chiediamo all'esperto. Dottor Aquila, abbiamo 30 secondi. Sì, talvolta no. Ci sentiamo traditi dal silenzio di un amico. Ma come? Sì, sei mio amico? No. Sì e no. Sì e no, perché a volte la vergogna è troppo forte. E noi dobbiamo essere, come dire, tolleranti anche nei confronti della vergogna che provano le persone, perché è protettiva nei confronti delle loro paure profonde. Quindi sì e no. Non... Esatto. Certo che diventa difficile, bisogna quasi essere dei santi, dottor Aquilar? Bisogna mettercela tutta, bisogna mettercela tutta, e soprattutto dobbiamo riconoscere l'importanza dell'amico per noi. Ecco perché io volevo farti pubblicamente gli auguri di buon onomastico, anche a nome di tutti gli ascoltatori, perché ci regali ogni giorno molti temi importanti di riflessione in un modo deliziosamente sereno e speranzoso. Auguri Nicoletta. Grazie, grazie, sono commossa. Allora io vi lascio, ringrazio Francesco Aquila e vi lascio con una bellissima poesia di Paul Éluard, che è un poeta francese tra i maggiori esponenti del movimento surrealista. Il mio regalo per voi. Non verremo alla meta ad uno, ma a due, se ci conosceremo a due, noi ci conosceremo tutti, noi ci ameremo tutti, e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine. Essere e benessere.